Buongiorno ragazzi, solito appuntamento, 35 gradi oggi, ma i leoni non mollano ragazzi, eccoli lì, sono tutti lì, qui altro che ciupiti di Bobovir. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Parting cross, c'è anche Milik, lo scaccia e mette dentro, e c'è il gol di Milik, proprio lui, in controtempo per Fashionkowski, 1-1. Penso che rompere il ghiaccio in questa manifestazione qualcosa ci sia costato, ma l'aspetto positivo è che anche i ragazzi a fine partita non erano contentissimi, erano contenti per il risultato, però anche loro dicevano bisogna gestire, anzi non gestire, bisogna chiudere queste partite. C'è tempo per l'ultima fonda, attenzione, è partito Milik, dall'altra parte Kayekon, buon rilancio per lui, buon anche controllo, un po' troppo verso l'esterno, poi si accentra improvvisamente, parte il cross verso Mertens, ancora un colpo di testa, c'è Milik, potrà arrivare lì, rete, ancora lui, doppietta Milik, Napoli in vantaggio. These presents don't really come for free. Your paycheck don't mean that much to me. Just take my hand and hold me tight. You'll never find my love. Io sono qua a 10 mani a Napoli e penso che questo è un più bel calcio che Napoli sta giocando in questi anni. Ci stiamo divertendo, giocando veramente un bel calcio e come lo sento io mi sto divertendo e la squadra si diverte giocando così. Napoli più bello di questi ultimi 10 anni, te lo dico così. Andrea Roccabella in regia, Giorgio De Luca nostro autore, Alvise Falzoni in redazione, il Napoli buona la prima, Milik doppietta, poi c'è De Luca che dice vabbè ma siamo solo di testa, perché di testa non vale. Primo gol molto bello, secondo un po' fortunoso, Napoli che vince a Kiev e parte con il piede giusto in questa Champions League. Questa sera aspettiamo la Juventus, molti dicono aspettiamo la risposta di Higuain, intanto Milik continua a timbrare il suo cartellino. Sempre sul Napoli sentiamo cosa ha detto Pepe Reina, autore di un paio di parate decisive, e sentiamo anche i nostri ascoltatori, 800 24 00 24, numero verde. Intanto notizia di oggi, il Giro d'Italia partirà dalla Sardegna, da casa di Aru, grande orgoglio partire dalla mia regione. Poi c'è stata conferenza stampa della vigilia di De Boer per quanto riguarda l'Europa League, ma questi sono tutti discorsi che faremo. Intanto sentiamo Reina. Sicuramente deve essere la nostra forza, però ovviamente quando ne fai sono 4 più 2 sono 6, 2, 8, abbiamo fatto anche parecchi noi, l'importante è vincere le partite, allora sì, sono d'accordo che deve essere la nostra forza, noi dobbiamo essere innanzitutto una squadra che difende bene, che è difficile da battere, e quello sarà il punto forte di questa squadra. Questa era Reina, poi c'è chi cerca questioni di lana caprina, ma vi rendete conto che i gol sono stati errori del portiere della Dinamo? A metà strada tra giocatore e porta, i gol li prenderai sempre. va bene, però intanto Milik ha timbrato il cartellino. Sentiamo anche Martens, un altro dei grandi protagonisti del Napoli di ieri sera. Secondo me Sarri è un grande allenatore, e sta facendo un grande lavoro, e con la difesa, con il centrocampo, con l'attacco, è un piacere giocare qua. E se abbiamo la palla più in squadra, e veramente mi piace giocare. Questa era Martens. Pierluigi Pardo questa sera racconterà la Juventus. Ciao Pier. Ciao, come va? Molto bene, molto bene. Bene, molto bene. Il Napoli ha timbrato il suo primo cartellino in Champions League. Questa sera molti insistono, ok, adesso a Milik deve rispondere Higuain. Non è così scontato, però già che risponde Higuain, deve rispondere la Juventus intera, no? Sì, ma anche se risponde Dybala, chi se ne frega, insomma. Bravo. Anche se risponde Buffon con un rinvio dalla sua area, cioè, non è così determinante. Sono chiaramente suggestioni giornalistiche, ma la bilancia della gazzetta è giustissima, ma anche un valore giornalistico, nel senso che comunque ci poteva essere il dubbio che il Napoli dal punto di vista offensivo si fosse molto indebolito, e queste prime quattro partite dimostrano che non è così. Quindi questa è un'ottima notizia per il Napoli, che comunque anche senza Higuain sta segnando tanto, e chiaramente il giocatore più atteso e anche magari un po' acerbo, no? Che poteva sembrare un po' acerbo per questo tipo di platea, invece è stato benissimo. Senti, rispondi a De Luca che dice ma segna solo di testa. Non vale? Lo annullano? De Luca, no. Non vale? No. Se mi dite che lo fa, fa un sorrisetto, però io dico che intanto questo timbra cartellino con grandissima regolarità. De Luca poi non è neanche è un purista, è un purista. Non è neanche così ottimista, quindi io penso che lui avrebbe firmato dopo quattro partite stagionali di avere un Milik così, con questi numeri e con questo impatto. Il Napoli ha fatto in quattro partite stagionali 5 doppiette. Questo è abbastanza indicativo, segna, che è una bellezza. Anche ieri poteva fare di più, c'è stato il palo di Mertens nel secondo tempo. So, francamente mi sembra che Pensa, problemi, aspetta, sono, ma... pensa a questo messaggio, mi rispondi dopo il traffico. C'è un ascoltatore che invia questo SMS 349-238-6666. Non è tecnicamente spettacolare come Higuain, ma la qualità più importante di Milik è il senso della posizione. Concordate? Traffico. Tutti convocati. Qui altro che ciupiti di Popovic. Tutti convocati. Cosa ha pensato quando ha preso quel palo che era tra l'altro un momento chiave della partita? Mannaccia, no, non lo so. Già mannaccia rende. Questo era Mertens, che comunque anche ieri ha giocato una grande partita. Hai pensato, hai riflettuto sul messaggio che ci è arrivato? Non è tecnicamente spettacolare come Higuain, ma la qualità più importante di Milik è il senso della posizione? Sì, ma non c'era bisogno del traffico, di sentire che c'è traffico a Viale Certosa, no? Direi che la risposta è sì, assolutamente, nel senso della posizione. Il secondo gol da questo punto di vista è assolutamente emblematico, perché ha fatto una cosa semplice ma quasi geniale, nel senso che è stato al posto giusto e ha capito che il modo migliore era piazzarla di controbalzo lì nella costa. Ha fatto una cosa da tennis. Certo, beach volley, bravo. Una palombella piazzata nell'angolo, quindi sono molto bravo. No, ma io credo che una volta usciti da questa suggestione, appunto, molto giornalistica e molto da bar, nel senso più alto del termine, del paragone con Higuain, che è chiaramente un tema, e però poi alla fine viene fuori la realtà è quella di un attaccante che comunque è un esordiente nel campionato italiano, che è partito benissimo, ed è partito benissimo perché ha delle qualità. Una di queste qualità è certamente anche l'affrontatezza, che forse è la più importante, perché per un attaccante sappiamo quanto sia decisiva la personalità, no? Chiamarsi bomber ci ha fatto un concetto quasi filosofico, certo, giù a ruota tutti, quindi certo. Insomma, l'attaccante deve essere attaccante, deve essere maschio alfa, deve essere uno che non ha paura, deve essere uno che infatti non a caso poi è soggetto a momenti magari di difficoltà quando quando segna un po' meno e la porta la vede piccola, e poi invece c'è un momento in cui viene tutto facile. Io non credo che sarà tutto facile per Milik, credo che il paragone con Higuain sia impossibile, perché Higuain è un altro pianeta. Diamogli tempo, Piero, diamogli tempo, cioè, Milik alla fine non è stato pagato poco, però è un ragazzo giovane, è un ragazzo molto promettente. Io penso che De Laurentiis sia felice. Enormi margini di miglioramento. Penso che De Laurentiis sia felice, penso che i tifosi del Napoli vorrà essere soddisfatti. Poi il campionato con Higuain, che ha fatto 36 gol, non l'hanno vinto. Non è facile, non penso che lo vinceranno senza Higuain, però la squadra è competitiva, può crederci, può approfittare se ci dovesse essere un momento di difficoltà da parte della Juve. Certo. L'unico problema del Napoli, della cessione di Higuain, secondo me, è che è stato venduto alla Juve. È l'unico problema, perché dal punto di vista economico e dal punto di vista dei sostituti mi sembra che il Napoli abbia fatto le cose. D'altra parte i soldi sono arrivati da lì e pecunia non olet, anche se arriva dalla Juventus, lo sai benissimo. Sì, poi non c'era neanche alternativa in questo caso. Bravo. Mentre aspettiamo Antonio Giordano, che sta sbarcando da Kiev e che abbiamo già prenotato, c'è Andrea da Trento. 800240024 è il numero verde. Salve, buongiorno a tutti. Buongiorno, io Andrea. È vero, sono un po' stupito di tutto questo clamore su Milik, perché penso che chi conosce un po' il calcio all'estero sapeva più o meno le qualità del giocatore, ed era un grande giocatore che insieme a Lewandowski fa la fortuna della nazionale polacca, per cui non sono particolarmente stupito. Invece sono molto stupito del fatto che il Napoli non abbia sistemato la parte della difesa, perché ieri sera è stata una fortuna non aver preso più di qualche gol. Albiol ballava, che era una meraviglia, ha sbagliato tre rinvii e sono partiti in contropiede, e onestamente la Dinamo non mi è sembrata niente cosa. È anche vero che l'altra faccia della medaglia, che è un gran bel mestiere, Milik insegna a fare il centravanti nel Napoli. È chiaro che nessuna squadra è perfetta, che ci sono grandi margini di miglioramento, che ci sono i pessimisti che, come Alex, che scrive, dice bene Sarri, non è stato un bel Napoli, non sempre avrà tanta fortuna e avversari così scarse. Vabbè, accontentiamoci di quanto abbiamo visto, aspettando la Juventus di questa sera. Insomma, no, mi sembra vincere, che il bicchiere sia nettamente mezzo pieno, forse anche di più. Pienissimo, dai. Bicchiere pienissimo, anche perché poi delle due l'una, cioè se uno dice che comunque il girone è difficile perché ci sono tre squadre che hanno vinto i rispettivi campionati e che la trasferta è insidiosa, poi se vinci... Ma Sarri è stato bravo ieri in conferenza. Bravissimo, è stato bravo bravissimo. A non far gasare l'ambiente troppo. Sì, è stato onesto soprattutto, è stato onesto. Però detto questo è una vittoria positiva, una vittoria importante, è una vittoria ottenuta praticamente senza soffrire in tutto il secondo tempo. Quindi secondo me è una buona prestazione, non è ancora il Napoli perfetto, non è ancora un Napoli di quelli di quelle squadre che ti fanno innamorare, che dici ammazza come giocano bene, però ha fatto quello che doveva fare. Siamo a metà settembre, Pierluigi, e la stagione è lunghetta. Sì, appunto, per cui va benissimo. Allora, 800240024, sentiamo anche Amsic che dice, tutto sommato per questa vittoria siamo contenti. Siamo molto contenti di vittoria, in fuori casa vale doppio e sicuramente conta tantissimo sta vittoria. Sicuramente il gioco poteva essere meglio, però ci li pigliamo questi tre punti. Siamo contenti che subito sia inserito bene, che sta facendo gol, e questo è importante per la squadra. E dopo non so, forse c'era qualcosa di preoccupazione, perché veramente gioco abbiamo fatto un po' di fatica. Vabbè, un po' di fatica sì. Antonio Giordano cosa dice? Inviato del Corriere dello Sport, nostro amicissimo. Ciao Antonio. Intanto vi faccio sentire i rumori di Napoli, visto che sono per strada. Perfetto. Ma va bene, sono meglio quelli che quelli. Immagino non ci siano già i caroselli per una vittoria nella prima giornata di Champions League a Kiev contro una squadra inglese. Sì, dico, volevo sentire i profumi, con tutto l'affetto per i rumori. I profumi, però, per radio, i profumi per radio è duretta. Io non volevo farvi del male, ma sto mangiando il miglior polipo affogato d'Italia, forse d'Europa, credo del mondo. No, mi fai bene. Cadendo la linea. Sta cadendo la linea con Antonio Giordano. Ma no, ho mangiato una sana busta di prosciutto, sto bene. Lo adoro, quindi sto per andare a Torino, però voglio dire, detto questo, va bene, beh, Volpe ci piace, beh, perfetto, è fatto quindi come affogato ma col pomodorino? Certo, alla Luciana. Il famoso polipo alla Luciana. Certo. È piaciuto il Napoli? Ma se devo essere severo dico di no, se devo essere pragmatico dico di sì. Una squadra che sa fare molto di meglio, sa giocare un altro calcio molto divertente, che stavolta ha vinto senza riuscire ad essere se stesso per interi 90 minuti o forse soltanto per una fase della partita, però insomma mi sembrerebbe assai poi critico un giudizio del genere. Devo dire che ogni tanto bisogna prendere il risultato per quel che serve, per quel che vale. E mi pare che una vittoria in Champions di questi tempi valga parecchio, anche in considerazione del fatto che gli altri non vincono e quindi ne tieni già tre alle spalle. Poi si vedrà. Una squadra che con 12 punti 3 anni fa è rimasta fuori, per una volta può prendersi l'aspetto positivo di questa partita. Sì, poi non è il Barcellona che vince 7-0 con il Celtic, improponibile. La riforma. La riforma no, non è il Bayern Monaco che vince 5-0 col Bate Borisov. Che fa sì che ci siano squadre, diciamo, calcisticamente, il famoso tabellone, no? 10 playoff che sono divisi tra paesi calcisticamente superiori, che quindi vedono 5 squadre che restano a casa. Ahi noi, quest'anno la Roma, in passato anche il Napoli e altre. E poi invece hai squadre appunto di livello certamente più modesto. No, io però io vedo una differenza fra. Cioè, per me la partita del Napoli di ieri non è stata bellissima sul piano dello spettacolo, d'accordo, ma è stata una partita molto sana. Cioè, io non ho visto. Hai ragione, pardon. Cioè, non mi è sembrata una vittoria fortunata. Non mi è sembrata una vittoria di una squadra superiore che è superiore, che non rischia. Che sicuramente nel primo tempo doveva approcciare la partita in maniera diversa. Ha sofferto per un quarto d'ora, subito prima e subito dopo il gol del 1-0. Ma che poi, insomma, ha recuperato e nella ripresa. Mi pare che non abbia rischiato nulla, quindi da questo punto di vista poteva anche chiuderla con me. Ecco, cioè, sono d'accordo sul fatto, siccome c'è un po' di equivoco fra lo spettacolo, che è un elemento importantissimo, perché chiaramente tu puoi vincere in maniera, cioè le partite fortunate sono altre, non so come dire, questa non è una vittoria fortunata. Grazie, ma se stiamo discutendo su una vittoria in trasferta nella prima giornata di Champions League, come dicevo prima, della prima partita dell'allenatore Caprina. Del Napoli, appunto, vorrei aggiungere che secondo me è soltanto colpa del Napoli tutto questo, perché per un anno ci ha abituato ad un calcio talmente bello, talmente straripante, talmente esagerato nella fattura, che non appena si entra nella normalità per una volta, siamo tutti quanti qui ad avvertire la puzza al naso, ma fatemi infatti, quello che sto dicendo io, Antonio, non so cosa vuole dire Tommy da Milano, che è un ascoltatore in linea. Buongiorno. Ciao ragazzi. Ciao, dimmi. No, volevo parlare della partita di domenica Inter-Juve. Come la vedete? Come arriva l'Inter? Guardiamo avanti. Beh, l'Inter innanzitutto deve giocarsi questa prima partita europea, è chiaro, Europa minore. Oggi ha parlato De Boer insieme ad Icardi, poi lo sentiremo. È il primo big match stagionale, è chiaro che la Juventus è strafavorita. Io credo che non ci siano grandi dubbi anche per i miei interlocutori Pierluigi Pardo e Antonio Giordano. Mi avvalgo della facoltà di non rispondere. No, non ci sono grandi dubbi. Ti appelli al quinto emendamento. Sì. Va bene. Non vedo la partita. No, io invece penso che... No, anch'io, chiaramente che la Juve sia favorita, è talmente banale dirlo. Però, insomma, se, io non penso che l'Inter non abbia la possibilità di fare risultato. Cioè, non penso che altrimenti veramente quest'anno allo stadio non ci andiamo mai. Io penso che la Juve sia favorita... che chiaramente l'Inter è molto indietro dal punto di vista tattico, ma insomma se cominciamo a pensare che anche in casa dell'Inter, che teoricamente è la terza, quarta forza del campionato, la Juve se la porti da casa, beh, questo vorrebbe dire veramente che e possono sospendere le scommesse di tutti i bookmaker di ogni piccola partita, perché io penso che l'Inter se fa prestazione, guardiamo dell'altro. Sì, può giocarsela, poi la Juve è più forte, e sicuramente più forte è favorita. No, io vorrei, prima di salutare Antonio Giordano e di lasciarlo ai polipetti alla Luciana, che sono senz'altro più interessanti. No, vi salutano i polipetti. Salutano, ok, con la manina. No, questo messaggio di Roberto: non pensate che il Napoli dovrebbe qualche suggerimento a Sarri sul look? Sembrava un contadino di sera. Beh, stasera c'è Sampaoli o Sampaoli, come dicono quelli bravi, che anche lui, insomma, ieri si è presentato in Bermuda in conferenza stampa, e questo è un vecchio elemento di forma e sostanza, un tema quasi filosofico, un tema che riguarda la vita di noi tutti. Io dico solo una cosa a Sarri: stai zitto, perché io ho in mente delle immagini tue con il blazer blu, Bermuda. Erano le 6:30 di mattina, ragazzi, io sono 50 anni che vado in giro con la cravatta, ma col fisico che mi ritrovo non se ne accorge nessuno. Cosa volete che compra? Non è vero, sei splendido. No, io dico solo una cosa, che a me una sola cosa mi dà lo fastidio di Sarri, che ripeto, in campo è bravissimo, nelle conferenze stampa può migliorare qualche volta, è quando dice che l'allenatore in tuta può essere mandato via con più facilità, perché se è così, visto che lui oggi allena una grande squadra, si mettesse la cravatta. Cioè, se lui pensa una cosa del genere, se lui pensa che inconsciamente gli arbitri o il palazzo, lo dico tra mille virgolette perché io poi devo ancora capire dove è stato palazzo, ma sono sciocchezze, sciocchezze, appunto, però voglio dire, se si pensa che non gli manca, dai, no, appunto. Dico, se pensa una cosa del genere, si mettesse già a cravatta, perché è bravissimo in campo e quindi è un piccolo sacrificio che diciamo che può migliorare dal punto di vista del look. Se pensa a questa cosa qui, inconsciamente, ci può anche stare. Ci può stare che lui senta su di sé un po' di quella puzza sotto il naso, no? Che magari chi è cresciuto senza tanta gavetta può avere nei confronti di chi si è fatto da solo. Ed è anche per questo che vogliamo bene a Sarri, perché tutto quello che si è guadagnato nella sua carriera se l'è guadagnato col lavoro. Non ha avuto certamente né spinte né corsie preferenziali, quindi questa è una epica da raccontare, quella di un allenatore di provincia che diventa così bravo, così grande. E se il problema pensa che possa essere la cravatta, se la metta. Questa è una domanda la posso fare a voi come testamento della giornata? Sì, prima di lasciarti al polipo. Certo. Ogni tanto mi viene da chiedere, e anche ieri sera è successo, ma il calcio italiano, mentre Sarri allenava in C, che faceva? Certo. Lo so, questo è vero, vabbè, ma insomma, però per dirti, Arrigo Sacchi, che insomma è uno dei padri della patria calcistica, Sarri l'ha sempre sposato, difeso, segnalato, proposto. No, quindi, ma poi è arrivato tardi, ma è arrivato anche Sarri. Arrigo Sacchi è un rettore dell'Università del Calcio. Sì. Quindi ci vedeva prima degli altri. Arrivato dal Parma, e se Berlusconi non lo difende prima di quella famosa partita di Coppa UEFA con l'Espagnol, magari si scrive un'altra storia anche per quanto riguarda Sacchi e per quanto riguarda il Milan. Buon appetito, Antonio. Alla prossima. Saluti dal polipo a tutti e due, ragazzi. Ciao. Allora, ci fermiamo per la borsa, torniamo subito 800240024 e cominciamo a parlare anche un po' di Juventus, che Pardo racconterà questa sera per Mediaset. Tutti convocati. Tra poco, nuove notizie. Pigia il coso rosso, grazie. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... Convocati. La Champions è una competizione ripeta a sé, l'obiettivo principale nostro della stagione è il campionato, perché fare il sesto scudetto sarebbe entrare nella leggenda. La Champions ci giocheremo fino alla fine le grandi chance che abbiamo quest'anno, ma come l'avevamo l'anno scorso e come l'avevamo avute il primo anno quando sono arrivato io. Io ci tengo a sottolineare che il sogno non è mio, il sogno è della Juve, di tutti i giocatori della Juve, di tutta la società e di tutto il mondo Juve, perché, perché alla fine la Juve non vince questa Coppa praticamente da quando ho cominciato a giocare io la carriera, per cui sono, siamo partiti praticamente insieme per questo inseguimento e vorremmo cercare di coronarlo insieme, questo sicuramente. Trovo siano molto saggi Allegri e Buffon, perché dire l'obiettivo è la Champions League vuol dire raccontare una balla, una bugia, perché sbagli un tempo, sbagli 10 minuti, sbagli la notte delle stelle e vai a casa. Quindi sono discorsi molto sensati, mentre i nostri ascoltatori sono come al solito molto precisi, puntigliosi, e Pardo ci dicono che non si dice polipo ma si dice polpo. Io dico va polpo, bene, polpo, io dico va polpo. Bene, polpo. Sempre detto polpo, però ma anche come ti pare. Sì. Ok. No. Parliamo di Juventus con Massimo Giletti? Eccoci, ciao, buon pomeriggio, ciao. Ciao Massimo. Ciao, ciao. No, dicevo, trovo molto sensati i discorsi di e molto realistici i discorsi di Allegri e di Buffon, perché è una sciocchezza dire l'obiettivo è la Champions League, è l'obiettivo di molti, la vince una sola e è una competizione, come io e Pardo raccontiamo tutte le volte, molto legata alle stelle. Ma sì, anche perché poi la storia lo dimostra, no? Ci sono squadre che sono arrivate in modo incredibile alla finale, vi ricordate il Chelsea il Chelsea guidato da Di Matteo, chi era in panchina? Di Matteo? Di Matteo, Di Matteo, sì. Insomma, vinse la Coppa in casa di Bacia, può succedere di tutto in una Coppa, però io penso poi che i sogni siano il propulsore della nostra vita, quindi averli e finalizzarli è un obiettivo vero, sensato, ma sapendo che tutto ruota anche intorno a un paio di infortuni e una squadra cambia se non ha due nomi importanti, o l'equilibrio è talmente così alto a quei livelli che veramente basta poco. Come dimenticare, i tifosi del Milan non lo faranno mai, quella notte famosa in cui il Milan aveva raggiunto altro che un sogno, aveva messo le mani sul sogno, però le coppe sono queste, Pierluigi. Sì, beh, poi il Milan, come si scriveva ieri un ascoltatore, ha avuto il privilegio e anche la bravura di vedere una cosa che poi spesso nella vita non succede, no? Trovarti nella stessa condizione 2 anni dopo contro lo stesso avversario, certo, e poterti vendicare, non sempre succede, quindi questo certo. È stato sicuramente un privilegio, e poi però il Milan è stato bravo a approfittarne. Ma sì, insomma, Land of Open Dreams, come dice il poeta Springsteen, è la terra dei sogni, delle speranze. Credo che rispetto agli anni scorsi per la Juve sicuramente sia cresciuta la pressione, ma credo sia cresciuta anche la qualità tecnica, la consapevolezza di questa squadra. Io, sai, i pronostici sulla Champions appunto sono impossibili, perché mentre sul campionato ma dai. No, nelle 38 partite chi è più forte vince. Stiamo parlando di maratona ai 100 metri, dai. Esatto, e quindi tu hai ragionissimo Allegri nel dire che in questo momento il suo obiettivo è arrivare a vincere il campionato e passare il turno in Champions. Io aggiungerei passare il turno da prima, questo sicuramente, perché sappiamo, e Siviglia ai noi lo ricorda con grande chiarezza, che passare per secondi può essere molto complicato e può appesantire il cammino. Quindi questi sono i due obiettivi, ma oggi insomma la Juve non deve pensare ai record, a quanto di quanti gol vincere, con quanto scarto vincere in casa contro il Siviglia. È più importante il campionato perché nel campionato ovviamente ogni punto che perdi ti rimane fino alla fine. Questo è chiaro. Da febbraio in poi le cose cambiano. Senti, ma tu sai che la famiglia Giletti è entrata nel mondo del calcio sponsorizzando l'Empoli? Lo so. Ma questi sono l'inverno dei Giletti, Che fai Giletti a Empoli? Che fai? Beh no, ma l'idea è di mio padre che fa filati, abbiamo un'azienda dal 1881, quindi siamo 2 secoli ormai passati. Io leggo, scusami, perdonami, io leggo 1884. Sì, in realtà nel 84 nasce la Giletti, però prima il mio bisnonno aveva già fondato un'altra azienda che aveva un altro nome, diciamo comunque addirittura ancora prima, ecco. E sono anni da pionieri, quando siamo pionieri si facevano queste aziende. Mio padre ha avuto l'idea di farla con l'Empoli, poi, perché lui ha rapporti molto intensi con la Toscana, quindi quella è terra di filati dove si lavora molto e quindi è giusto, ma è così, andrò a vedere magari una partita Juventus-Empoli, vediamo. Empoli-Juve e diciamo insieme, come faceva Costanzo, buona camicia a tutti. Ma tu lavori a domenica, scusa, no, era così un attimo. Magari c'è un anticipo, un posticipo, sì. Che fare. Però il problema è che io non sono Romiti, devo dire, che Romiti quando arrivò alla Juventus tifava Roma, ma poi diventò, si adeguò e tifò Juventino. Io purtroppo Empoli mi piace, ma se vado a vedere Empoli... Ora non si comanda, abbi pazienza. Beh, ma sai, hai il vantaggio che insomma non se ne vorranno a Empoli, gli obiettivi delle due squadre sono abbastanza... diversi, wow. Sì, sono abbastanza diversi. Insomma, ci sarà un ballottaggio scudetto, quindi tu puoi tranquillamente puntare allo scudetto e alla Champions per la Juve, è una salvezza tranquilla per Empoli, proprio. La vittoria col Crotone dell'altra sera è stata importante in quest'ottica, quindi ho due squadre in A, dai, diverso. Bravo, hai due squadre in Serie A, sì, hai due squadre per fare il tifo. Quando avremo la Giletti sulla maglia della Juve, proprio come main sponsor... Ma adesso credo che costi troppo per noi. Vedo che la Roma non ne ha, ci sono molte squadre, invece quello è un problema che interessa a Pardo, che lui si occupa di calcio sempre. Queste squadre italiane importanti come la Roma, per esempio, Massimo, lasciami fare il paraculo, noi abbiamo le magliette libere a tutti i convocati, quindi... abbiamo... pare no, abbiamo magliette libere, no Pardo? Ci accontentiamo anche di poco, fra l'altro, ci penso volentieri, perché per esempio Pardo è uno che buca, quindi è interessante, buca. I suoi cambi sono sempre forti, sì. Lo so, vabbè adesso, però è vero che buco, però ho anche una taglia, cioè mi costa chiappinati, la Giletti fa dei prodotti molto elastici, molto interessanti, quindi funziona. La quantità di filato è un po' superiore, ecco, questo va bene, ragazzi, ne ridiscutiamo. Grazie Massimo ciao, Giletti. Ciao Pierluigi, ti lascio correre a Torino per preparare Juventus Siviglia, dai. Va bene, ci sentiamo domani, amico mio. Traffico, torniamo. Tutti convocati. I love this game. Tutti convocati. E io adesso parlo con gli ascoltatori, col vostro permesso, 800240024, numero verde, Massimo da Napoli, buongiorno. Buongiorno, mi spiace che è andato via Pardo, avevo una domanda per lui. Doveva correre, ma torna domani. Volevo sentire, ma se Milik continuasse a giocare così, non è che a gennaio la Juventus propone lo scambio Higuain più soldi per Milik? Era una curiosità. No, era una battuta, tipo una curiosità, Massimo. Non... no, ma era per Pardo, perché so che è un buon gustaio. Sì, certamente è un buon gustaio, però mi sembra che siamo nel campo dei sogni, va bene. Nel campo delle battute. No, più che altro mi incuriosisce il fatto che il mio amico De Luca, napoletano, napolista e ovviamente autore di questo programma, dice: beh, segna solo di testa, vabbè, incominciamo a fare gol di testa, poi facciamo quelli, poi piano piano di testa, di coscia, sì, no, di ginocchio, di naso, però sì, l'importante è il senso, per secondo me, per un attaccante l'importante è il senso della posizione, e questo ragazzo ce l'ha, ha l'istinto del gol, il fiuto del gol, e è giovane e ha ampi margini di miglioramento, dunque io direi che è il caso di accontentarsi, no, di quanto sta facendo Milik. Poi vediamo, poi domani chiedo a Pardo se è possibile uno scambio Milik-Higuain tra Napoli e Juventus. Alfredo, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Allora, innanzitutto, ricollegandomi al discorso della maratona paragonata alla Champions League, secondo me proprio per questo non vincere la Champions League non sarebbe un fallimento, fondamentalmente. E inoltre volevo sapere la sua opinione per quanto riguarda quello che a mio parere è il miglior acquisto di questa sessione, cioè Pjanic, che magari alla Roma non era abbastanza discontinuo, ma con gli schemi di Allegri diciamo che può rendere con molta più costanza, e potrebbe essere il salto di qualità per la Champions League. Ma sa Alfredo, qui stiamo un po' scoprendo l'acqua calda, che Pjanic sia un eccellente giocatore l'avevamo capito anche nella Roma, sul fronte del fatto di non essere particolarmente continuo, anche questo lo sappiamo, diciamo che è calato in una realtà che è in grado di valorizzarne tutte le potenzialità. Quindi poi maratona o sprint, la Champions League la vince una squadra soltanto, molte spendono, molte sono le favorite ai nastri di partenza, però ripeto, è una competizione estremamente legata alle stelle, è una competizione in cui ci sono 5 o 6 chiare favorite, e tra queste 5 o 6 metto senza problemi anche la Juventus, e poi una la vince e tutte le altre la perdono, perché la Champions è fatta così. Alessandro, buongiorno. Buongiorno a tutti. Dica. Niente, volevo dire, innanzitutto sono un tifoso del Napoli, e la Juve comunque è stata costruita quest'anno per vincere la Champions, no? Come diceva comunque l'allenatore Allegri. No, ma quindi su questa cosa siamo sempre sullo stesso discorso. È chiaro che è stata costruita per vincere la Champions, così come il Barcellona, che ieri ha vinto 7-0, è stato costruito per vincere la Champions, così come è evidente che il Bayern Monaco è una delle grandi favorite per vincere la Champions League. È inutile che facciamo l'elenco di tutte le favorite per la Champions League. Il fatto è che una se la piglia e le altre se la pigliano in saccoccia. Siamo d'accordo su questo, quello, no? Quello è sicurissimo, questa cosa qui. Poi il Napoli comunque, ormai i tifosi napoletani stessi hanno dimenticato Higuain. Ora c'è Milik, c'è la squadra, anzi, oggi giocherà tutta la squadra, gioca. Prima il Napoli giocava solo su un solo giocatore, Higuain. Oggi invece ho visto una squadra che comunque gioca collettivamente tutta, completa. Sì, quindi, ma anche l'anno scorso, anche l'anno scorso. L'anno scorso però giocavamo un po' su Higuain. Perché Higuain è tremendamente bravo, e il Napoli è una squadra tremendamente efficace nel far rendere nel miglior modo possibile i suoi attaccanti, Milik compreso. Piuttosto, a lei importa qualcosa se Milik, scusate se insisto su questo discorso, ma mi affascina molto, se Milik segna di testa, di piede, di coscia, di ginocchio? Assolutamente no. Molto bravo di testa, però ha un senso della posizione che denota le stimmate del grande centravanti. Poi, se sarà davvero un grande centravanti, lo scopriremo soltanto con il tempo. In questo momento possiamo dire che giochi in una squadra che mette i suoi attaccanti nelle condizioni migliori per fare gol, è molto bravo di testa. Martens, che in questo momento sta giocando una grande stagione e che ha un piede fatato per mettere quei cross, e dunque io direi teniamocelo così. Paolo, dica. Ciao, buona giornata a tutti. Ciao. Buon calcio. Volevo fare i complimenti tanto da buon juventino al Napoli, che ha fatto la prima e l'ha fatta buona. Sì. E questa è una bella cosa. Sì. Ma ti sta crescendo il naso o sei sincero? Sono uno sportivo, quando gioca l'Italia in qualunque parte va bene così, va bene. La prendo per buona. L'altra cosa, volevo salutare Pardo, ma so che ti ha dato via. È scappato a Torino a raccontare la tua squadra. E volevo dire che è meglio che venga sempre lui a tifare per noi, perché in realtà quando parla lui sulla Juve, ragazzi, qua si vince sempre. Su questo non ho grandi poteri, non vogliamo né le sciabolate nemmeno altro. Su questo, Paolo, amico mio, su questo non ho grandi poteri decisionali, quindi questo puoi dirlo a Pardo domani quando torna, ma giuro, su questo non ho grandissime chance per condizionare le scelte di chi racconta la Juventus in Champions League. Allora, ci fermiamo per il GR, torniamo subito dopo. 800 24 0024 è il numero verde. Tutti convocati. Poi si fa fatica, ragazzi. Io vorrei un'Europa fondata sul lavoro. E tu come vorresti l'Europa? ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Il segnale orario vi è offerto da... Il 56esimo Salone Nautico vi aspetta a Genova dal 20 al 25 settembre. Tutti convocati. Sì, certo. Non penso che sia tardi. Penso che avrei potuto prenderlo prima, però lavorando bene, allenandomi seriamente tutto, potrei avere ancora un 2 anni, 3 anni dove pensi potrei... Pensi che non l'ha fatto questi ultimi 2 anni? No, io penso che negli ultimi 2 anni il mio modo di lavorare sia diventato da 10% a 80%. Ho cominciato a lavorare in questi 2 anni. Per 24 anni non ha lavorato? No, mi sono divertito. Super Mario Ballotelli, Mario Bros, Mario Gol, barzellette su Mario, foto di Mario nel penitenziario. Non ho mai pensato di migliorarmi, non ho mai pensato di stare di più sul campo, non ho mai pensato di fare un massaggio, non ho mai pensato a queste piccole cose che comunque sono importanti. Grazie a Dio il mio fisico è ancora giovane, quindi non ne ho bisogno, ma lo faccio perché ho capito che andando avanti non hai sempre il fisico di uno di 18 anni. Allora, i nostri ascoltatori sono come sempre esperti di Lara Caprina. C'è chi mi scrive via SMS, Daniele 349-238-6666. A proposito di banalità, anche il campionato lo vince una sola squadra. Lo so perfettamente, ma il campionato è una maratona. La Champions League è un 400 metri olimpico. Facciamo così, non vi piace 100 metri, facciamo 400. Allora, abbiamo sentito questo montaggio curato da Giorgio De Luca su Mario Balotelli, che ha esordito come meglio non poteva con la maglia del Nizza, e Franco Arturi, vice direttore e anima della Gazzetta dello Sport, gli era scritto un articolo estremamente impopolare. Ti fare Balotelli ci sono 10 perché. Ciao Franco. Ciao, adesso sono editorialista della Gazzetta per precisare, ma... Comunque sì. L'anima è sempre lì dentro. L'anima è sempre lì dentro, rimane questo articolo che sai, sai qual è l'opinione pubblica su Mario Balotelli? No? Ma con calma, io giudico anche dalle reazioni che ho avuto dopo questo articolo, largamente favorevoli, quindi c'è un'opinione pubblica diciamo rumorosa come sempre e un'altra molto più riflessiva. Non credo proprio che predomini quella che non ha stima, o meglio non ha speranza in Balotelli, perché tutti si accorgono che fino adesso ha deluso le aspettative a partire da quelle proprie, ma molti si augurano che prima o poi, come del resto lui annuncia, inverta la marcia con una nuova tendenza. Sì, io chiamo a raccolta anche i nostri ascoltatori, sempre molto critici, 80024 0024, il numero verde. Posso chiederti quali reazioni hai avuto? Sì, certo, in parte te l'ho detto, notevolissime, perché come molti ascoltatori e tu stesso saprai e sapranno, non è il primo articolo della mia vita che scrivo e quindi è raro che ci siano delle reazioni. Stiamo usando pallidi eufemismi. Sì, è raro che ci siano una serie di reazioni numerose, insistite, per esempio con email. In questo caso ci sono state diciamo così 1 a 10 di persone diciamo che apprezzavano lo spirito con cui è stato scritto questo articolo, che poi non è uno spirito di chi si nasconde le mille occasioni che ha sprecato e sprecherato questo ragazzo, tutt'altro. Sì, però avremmo un tremendo bisogno di lui anche in chiave azzurra. Ora, sempre sulla Gazzetta di ieri, non è troppo tardi per il pallone d'oro, forse lì un pelo si... Insomma, bisogna sognare forza, in grande. Bisogna sognare in grande, però avremmo una tremenda necessità del suo talento anche in chiave azzurra. Questo rimane un dato di fatto difficilmente discutibile, no Franco? Sì, avremmo bisogno del Balotelli che non si è mai visto, ma che molti, quasi tutti direi, hanno intuito potrebbe essere. Avremmo bisogno di un Balotelli che quando la sua squadra perde la palla faccia qualche cosa, avremmo bisogno di un Balotelli che non si faccia fare mille falli con giochini e pseudo piccole provocazioni, avremmo bisogno di un Balotelli che sappia attaccare il primo palo, che sappia muoversi da punta, che non perda il controllo dei nervi, che abbia rispetto dei compagni, dell'allenatore, degli arbitri. Ecco, questo tipo di giocatore che ancora largamente non abbiamo mai visto, ecco, di questo avremmo bisogno e come. Sì, perché dovrebbe rinascere ai confini dell'impero? Inutile nascondersi che insomma, Nizza, meravigliosa città, Costa Azzurra, maglia rossonera, ma perché dovrebbe rinascere ai confini dell'impero? Beh, perché nella sua carriera l'incontrario, partito dal massimo e arrivato molto in basso, è quasi ai minimi e quindi di solito quando si arriva giù da un punto di vista psicologico di carriera, se uno ha la stoffa si ribalta e quindi questo potrebbe essere il momento. Se poi ha imparato la lezione, come abbiamo sentito nel vostro bel montaggio di apertura, e allora sì, finalmente imiterà, come io ho scritto, il nostro Paolo Lorenzi, che ha 34 anni e mezzo, è diventato numero 35 del mondo del tennis e numero 1 di questo sport in Italia, il che poco non è. Guarda, io sono sempre stato un sostenitore di Balotelli fino alla provocazione quasi, perché io sono innamorato del suo talento per la verità potenziale. L'abbiamo sentito tante volte dire queste cose, direttore. Sì e no. Dice, mi pare no? Che in questo caso ci sia un'accentuazione di verità, laddove per esempio giustamente inquadra il suo non impegno, che altre volte forse non si è mai sentito. Si è sentito spesso il farò, vedrò, vincerò, sì, questo sì. Ma il non sono stato un atleta serio, ecco, questo lo si è sentito poco, forse mai. Sì, rispondimi a questo messaggio, poi sentiamo un paio di ascoltatori insieme, poi ti lascio alle tue incombenze. Se Balotelli avesse successo, sarebbe il più brutto esempio che si dà ai giovani, sarebbe come dire fate sempre quello che volete, tanto avrete successo lo stesso anche senza regole e senza lavoro. Lo scrive Giancarlo da Brescia. Ecco, io all'amico Giancarlo dico che sono del parere diametralmente opposto, perché nello sport il successo senza fatica, senza lavoro e senza sacrificio non esiste. E quindi se Balotelli lo avrà, sarà il migliore degli esempi, perché uno che ha fatto il lazzarone per anni si è finalmente piegato alle leggi dello sport, della vita e del senso comune. Quindi direi che è proprio l'opposto. Sottolineo in rosso il lazzarone. Marco da Roma, buongiorno. Buongiorno, salve. Io sono interista, sì. Quindi ricordo il Balotelli degli inizi, lo ricordo con un po' di nostalgia. Quindi il primo motivo per cui vorrei che si recuperasse Balotelli è proprio perché quel giocatore lì attualmente in Italia non ce n'è un altro, non abbiamo un altro talento del genere. Sono tutti buoni giocatori, specialmente in avanti, ma un talento puro come lui io non ne vedo. Recuperarlo sarebbe fondamentale per il calcio, per la nazionale italiana. E poi volevo dire un'altra cosa sulla Champions. Ero d'accordo con lei quando diceva che secondo me non si costruisce una squadra per vincere la Champions, si costruisce una squadra per essere fra le 6, 7, 8 squadre che arrivano costantemente nei quarti di finale. Ed è questa la grande occasione, per esempio fallita dall'Inter nel post 2010, che sulla scorta di quel successo poteva costruire un ciclo per rimanere fra quelle 7-8 squadre che costantemente fanno i quarti di finale e le semifinali della Champions. Allora Marco, questa è un'altra storia sull'Inter del triplete, insomma ormai è passata anche troppa acqua sotto i ponti, quindi è chiaro che sono d'accordissimo sul fatto che si costruisce una squadra per essere tra le 6-7 elette, tra le quali normalmente esce la vincitrice della Champions League. Quanto a Balotelli, io l'ho ricordato anche troppe volte e sarete anche stufi, però io non posso dimenticare un gol che fece a 17 anni con Mourinho allenatore a Udine da 25 metri palleggiando con la suola e tirando di controbalzo a fil di palo Perdonatemi, ma mi è rimasto impresso quel gol di Balotelli, tra molti altri che ha fatto, e quindi concordo sul fatto che non ci sono molti giocatori italiani che hanno quel tipo di talento. Franco. Beh, sono in parte d'accordo. Ne ricordo un altro, non simile, ma ugualmente abbagliante, di Cassano contro l'Inter, 17 anni, o giù di lì. Direi che questo tipo di gol, appunto abbaglianti, portano un po' sfiga a vedere cosa è successo dopo, no? Il talento di Balotelli è sicuramente fisico-atletico, sicuramente sì, nella capacità di tiro e in alcune reazioni muscolari, però tutto il resto è completamente da affinare. Balotelli negli ultimi 3, 4, 5 anni ha giocato quasi da analfabeta del calcio, tanto più da analfabeta del calcio di attaccante, e quindi scoprire cosa può fare un analfabeta che finalmente scopre il valore della cultura, si mette sui libri, parte dalle aste e poi in fondo dice: guardate, in alto c'è il pallone d'oro, io ci provo. Beh, è affascinante, certo. Saperlo, dirlo, eccetera. Certo, non c'è dubbio. Riccardo da Roma, poi saluto Franco Arturi. Riccardo, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. E sento su Balotelli, se con l'Inter è passata tanta acqua, col Milan no, adesso si potrà dire tutto quello che si vuole, ma Balotelli gli ultimi 3 anni ha giocato anche lui in una squadra di analfabeti, che è il Milan. C'è una squadra in cui era impossibile, c'è quasi da pensare che l'abbia scelta apposta per non faticare e per non crescere, perché il Milan non avrebbe fatto emergere, come non ha fatto emergere nessuno. Riccardo, io torno a sottolineare quella parola pronunciata da Franco Arturi, e cioè Lazzarone. Quindi possiamo discutere di tutto quello che vogliamo, quindi ha ragione lui, come molto spesso capita, si è comportato da Lazzarone, non resta che sperare che abbia imparato la lezione. Questo lo scopriremo, come diceva il poeta vivendo, no direttore? Certo, è bello inseguirlo, ed è molto, soprattutto molto brutto augurare il peggio e il male a chiunque. Bravo. Ecco, bravo, questo è una è un peso, cioè è una cosa quasi immorale, non ha senso. Cioè al massimo Balotelli avrà sprecato il suo talento. E poi io chiuderei con una piccola considerazione: quanti milioni di euro ha preso Balotelli dalle squadre italiane, magari deludendo? Beh, su ogni milione che ha preso di ingaggio, 420.000 euro, 480.000 euro sono andati allo Stato italiano, perché potesse costruire asili, scuole, potesse sostenere le illuminazioni pubbliche, eccetera. E quindi voglio dire, c'è del buono anche quando sembra tutto quasi cattivo. Sì, direttore, Zanardi ha vinto l'oro alle Paralimpiadi. E qui invece di cattivo c'è proprio niente, siamo veramente all'esempio più luminoso di quello che significa la vita, del valore da attribuire ad ogni momento, in ogni condizione. Sono quasi commosso nel dirlo. Sì, e ha dedicato l'oro a Gianmarco Tamberi, dicendo sia di incoraggiamento a Gianmarco, che è un ragazzino, dove sottintendendo dove sono arrivato io può arrivare lui a Tokyo. Quasi inutile spendere parole, secondo me, quasi inutile spendere parole. Ci prendiamo questo risultato e queste dichiarazioni di Zanardi così come sono. Grazie direttore, grazie Franco. Grazie a tutti voi e complimenti per la trasmissione, posso dirle anch'io, no? Grazie, fanno particolarmente piacere da Franco Arturi, grazie davvero. Di nuovo, ciao. Arrivederci a tutti. Ciao, Claudio, buongiorno. Buongiorno, mi unisco ai complimenti anch'io. Visto che, grazie, una grandinata. Come si dice, complimenti da una voce autorevole come Arturi, complimenti da una voce normale del pubblico. No, che hanno lo stesso valore, perché siamo tutti sulla stessa barca e ci divertiamo tutti i giorni in questo modo. Quindi adesso lasciamo stare il miele e mi dica. Allora, volevo fare un'analogia fra due giocatori italiani che secondo me si somigliano molto, non sotto l'aspetto fisico o anche tecnico, ma sotto il profilo del comportamento. Balotelli e Cassano. Lo sapevo questa. Non questa, sembra che abbiano delle analogie notevoli? Io ho sempre trovato di no, cioè nel senso che sono due personaggi diversi, due giocatori che hanno dissipato almeno Cassano è a fine carriera e quindi possiamo considerarla così. Balotelli ha ancora molto tempo, però hanno dissipato, stanno dissipando gran parte del loro talento. Poi, detto questo, non trovo grandissime analogie tra i due personaggi, se non appunto questo denominatore comune che sta nel buttare a mare un grande dono divino, che è il talento che hanno. Claudio, grazie, torna a trovarci presto. 800240024 numero verde. Siete stati voi giornalisti a rovinare Balotelli sopravvalutandolo e descrivendolo come il leader del calcio italiano, mi scrive un ascoltatore. Va bene, ci prendiamo anche queste colpe e queste responsabilità e saluto il mio amico Tancredi Palmeri. Ciao. Ciao Picciotti, parliamo di Cassano e Balotelli, quindi modifico da ragazzi a Dai. Picciotti. Senti, tu trovi analogie tra i due al di là del fatto della capacità di dissipare gran parte del talento che hanno avuto, gran parte di questo dono divino per Balotelli? La storia è ancora finita, per Cassano praticamente sì. Guarda, secondo me no, perché c'è una differenza sostanziale. Noi di Cassano conosciamo il valore, lo conosciamo perché Cassano ha sempre deciso lui quando farcelo vedere e quando no, ed ha sempre deciso lui quando accendere e spegnere la luce, in campo soprattutto. Noi abbiamo visto le castanate soprattutto in campo. Balotelli invece è un diamante in divenire. Balotelli è l'eterna... Balotelli è l'attesa festa di Balotelli, ed in verità la luce che si spegne di Balotelli è quella che è fuori dal campo. Se noi ci pensiamo, le balotellate non esistono. Non è che lui, tranne quando ha tirato la maglietta dopo la semifinale col Barcellona, qualcuno l'ha fatta, sì, però pensa, Cassano ha una lunga galleria. Cassano avrà fatto le sue cose nello stanzino di Trigoria, però tutto comunque sia come fanno normalmente di nascosto i calciatori. Non è uno che ha fatto che insomma è stato coinvolto in rizze, cose varie, fermato alla 10.000 sterline sul Faccio fatica a sentirti, magari ci riproviamo proviamo a ripristinare il collegamento. 800240024 con Tancredi Palmeri. Volevo anche inquadrare qualche tema emerso dalla serata di Champions League, come ad esempio quello di Cavani, che è nel mirino della critica e dei tifosi dopo l'1-1 del deludente del Paris Saint-Germain. Cavani a segno, ma anche un Cavani particolarmente sprecone. Lo sentiamo? Abbiamo avuto tante occasioni, non sono riuscito più io che gli altri a magari chiudere la partita, e quello l'abbiamo pagato caro, carissimo alla fine, quando che invece di prendere tre punti abbiamo preso uno. Invece di prendere tre punti abbiamo preso uno con l'Arsenal in casa. È un mezzo fallimento per il Paris Saint-Germain, che di diritto fa parte del gotha delle squadre, che di quelle famose 5-6 squadre che hanno che possono accampare il sogno, che possono avere il sogno di vincere la Champions League. Tancredi. Guarda, è vero che il risultato è una totale delusione, soprattutto se accoppiato all'inizio di stagione del Paris Saint-Germain, perché ti fai battere nettamente dal Monaco, perdi altri punti. Per cui non è ovviamente un caso se succede varie volte. Tuttavia, ieri al 60esimo il Paris Saint-Germain poteva vincere 6-0. L'ha veramente regalata all'Arsenal. Le occasioni che ha fallito Cavani gridano veramente vendetta, perché non sono dei tiri che poteva aggiustare, erano dei palloni da spingere. Sì. Però anche là è un po' ingeneroso la critica, vedi Cavani non è Ibrahimovic, che ovviamente si riconosce anche dal naso che non è Ibrahimovic. Tuttavia però sono occasioni che si è creato Cavani, sono movimenti, tagli dentro, robe che insomma per esempio a Napoli hanno imparato a conoscere benissimo, quando Mazzarri l'aveva spostato da fascia al ruolo di centravanti. Per cui devo dirti, dei tre risultati deludenti che ha avuto finora il Paris Saint-Germain, questo paradossalmente è quello di cui preoccuparsi meno, perché si è girato male, devi essere più chirurgico, però la prestazione veramente l'hai fatta. La cosa che mi preoccupa è che al 94esimo, provocato, quello che vuoi, però inutilissimo, un'altra volta Verratti si è beccato per un cartellino rosso per doppia ammonizione. E ora Verratti è già una realtà del calcio internazionale, sono 3 anni che è stabilmente uno dei migliori centrocampisti di tocco, è venuto il momento in cui progredire mentalmente e non concedere più questi vantaggi. Sì, però è un fighter, a me piace, è chiaro, tu hai ragione, deve migliorare. Pensa però in Italia-Spagna o Italia-Germania. Però ragazzi, io Verratti lo ricordo l'altra sera in maglia azzurra, zoppo, combattere come un assatanato. A me piace quel tipo di atteggiamento, poi è chiaro che devi limitare un attimo, crescere. I cartellini gialli ogni volta. Hai ragione, hai ragione. Senti, Barcellona e Bayern Monaco non scherzano. 1-7, 1-5, 12 gol a 0 tra le due, forse le due maggiori favorite per la vittoria finale di Champions League. Porca miseria. Allora, la cosa più impressionante del Barcellona non è tanto le fraccate che gli ha dato Messi, che ricordiamolo, è sarebbe claudicante teoricamente sarebbe infortunato, sì. Sì, infatti, per un problema all'inguine, che quindi anche di quelli più limitanti e quando sei un tipo di calciatore come Messi, ma l'ha fatto partendo senza Iniesta in campo, cioè senza la mente, i neuroni pulsanti, vaganti, è impressionante. Anche è vero che non tanto il Celtic, prenda Rodgers, perché quando tatticamente si può fare una, come si dice in scozzese, minchiata, Brendan Rodgers la fa. Anche in francese, sì. Anche in francese, se non sbaglio. Anche in francese, sì. Il Bayern Monaco sembra aver, ovviamente non si dimentica quello che ha fatto Guardiola fino ad ora, e Ancelotti è il più furbo da questo punto di vista. Non arriva là, cioè non è Benitez che arriva all'Inter e alla prima conferenza stampa post triplete dice dobbiamo giocare meglio, e la gente lo guarda come a dire ma tu che cosa hai vinto nella tua storia per venire a dire una cosa del genere il giorno dopo il triplete. E Ancelotti fa tesoro di tutto il buono che c'era e poi ci aggiunge quello che mancava. Ieri abbiamo visto dei ribaltamenti di fronte, delle verticalizzazioni, anche quando ce n'era bisogno, alcune palle lunghe, che sembra quasi una bestemmia quando hai in squadra Xabi Alonso e Thiago Alcantara, certo, ma non lo è se però invece hai davanti Lewandowski e Thomas Müller che te le capitalizzano. Abbiamo visto quello, se vogliamo, di pratico che poteva mancare ancora al Real Madrid, al Bayern Monaco, così come l'aveva fatto Ancelotti al Real Madrid. Sì. E questa forse non dimentichiamo, amico mio, che siamo a settembre. Certo, e devo dirti anche una cosa: sistematicamente nel momenti salienti c'è sempre un uomo che è fondamentale per il Bayern e fa differenza avercelo o non avercelo, che è Robben. Per ora puoi fare a meno di Robben, dopo chiaro. Se la salute lo assiste. Grazie Tancredi, grazie a voi, grazie ciao, mille ciao. Ciao Tancredi Palmeri, Andrea Roccabella dalla regia mi fa segno chiudi. Grazie a lui e Giorgio De Luca, ci sentiamo domani alle 14, ciao.